Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti, sono le 17.09, buonasera da Deborah Rosciani, bentornati ad una nuova puntata di Focus Economia, la giornata economico-finanziaria. Non è neanche iniziato, non abbiamo neanche sentito la sigla, che già mi prendo il primo sberleffo del primo ascoltatore che, commentando questi ribassi di borsa, per definirli con un eufemismo di questa giornata, dice: ma cosa vi preoccupate a fare, sono passati all'incasso gli investitori dopo il rally d'inizio anno, lo dice sempre quell'aquila della Rosciani. Caro Roberto, buonasera anche a lei e a tutti gli ascoltatori. Beh, ognuno può fare anche i commenti che vuole rispetto a quello che vede. Sicuramente qualche settimana fa parlavamo di un mercato molto positivo, di un mercato che andava piuttosto bene, poi nel giro di un paio di settimane le percezioni sono cambiate, si è ritornato a parlare con grande preoccupazione delle condizioni del debito sovrano dell'Eurozona, e quindi prendendo questa scusa importante, fondamentale, chiaramente molto una condizione molto difficile, e chiaramente gli investitori l'incasso lo hanno fatto certamente, perché non è che possiamo dire il contrario, visto che Milano, che guadagnava il 15-20%, ha annullato nel giro a fine marzo di un paio di settimane, o forse addirittura in una settimana, tutto quel guadagno che da gennaio aveva messo a segno. Per cui chiamiamolo come vogliamo, chiamiamolo prese di beneficio, chiamiamolo incasso, ritorno di sfiducia e crisi del debito sovrano, di fatto il rialzo c'era nei primi tre mesi ed è stato annullato. Cosa è successo oggi in borsa? Vi abbiamo già anticipato nel giornale radio l'entità dei cali di oggi: meno 3,6% per Milano, meno 3 a Parigi, meno 3,40 a Francoforte, meno 2 a Londra. Oggi monitoriamo anche l'Olanda, l'AEX, meno 2,72%. Perché? Perché il mercato è ritornato così negativo per un mix di fattori. Ci sono state intanto le indicazioni del G20 di Washington del fine settimana, c'è stato il risultato elettorale, il primo turno per le presidenziali francesi, che ha decisamente scompaginato le convinzioni politiche, quindi anche economiche, perché la ricetta di Hollande per la ripresa economica è ben diversa da quella del presidente uscente Sarkozy. C'è un dato economico europeo che pure stamattina ha disturbato parecchio: il PMI dell'Eurozona in aprile in discesa rispetto alla rilevazione di marzo, in modo sicuramente disatteso, e quindi tutto questo è servito oggi a riportare le vendite molto pesanti sul mercato azionario, a far ritornare anche l'attenzione sul mercato obbligazionario, perché chiaramente lo spread che cosa poteva fare se non tornare a crescere abbondantemente sopra i 400 punti base, cosa che è successa. Però c'è anche da dire che questa situazione si è determinata anche per il fatto che i bund tedeschi continuano a scendere, per cui questa oltre all'attenzione che chiaramente riguarda il nostro paese, c'è stato anche un concomitante calo di prezzo appunto dei Bund dalla Germania, quindi dei titoli di Stato tedeschi. Sono tanti dunque i temi dei quali parleremo questa sera, ci soffermeremo prevalentemente sulla giornata di borsa e su questo ritorno di grande difficoltà sul mercato azionario. Parleremo della visita del ministro Fornero negli stabilimenti di Alenia Caselle nel torinese, parleremo anche della spending review, le iniziative del ministro Giarda, visto che entro qualche giorno dovrà relazionare al governo su quale iniziative di lotta agli sprechi della spesa pubblica intende prendere, anche se molte sono state già prese. Poi parleremo di una notizia che non abbiamo avuto modo di approfondire nei giorni scorsi, quando appunto è stata diramata, cioè la notizia dell'esproprio di YPF, che è la filiale argentina di Repsol, da parte dell'esecutivo della presidente argentina appunto Cristina Kirchner. Che cosa significa questa iniziativa e soprattutto che tipo di ricadute si temono per le tante aziende italiane che operano in Argentina? Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti oggi. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Le notizie in breve della giornata. Materie prime, come sempre, in apertura. Oggi l'oro ha aperto stabile, 1641,40 dollari l'oncia, in leggero calo invece il petrolio, che a New York ha aperto in ribasso appunto a 102,64 dollari al barile. E però nel nostro paese si sono registrati nuovi picchi storici per la benzina, che è arrivata a 1,918 euro al litro. Questo è il prezzo rilevato appunto nella catena di distribuzione Shell. In lieve calo il diesel dopo le mosse di Eni, Esso e Shell, che invece hanno ridotto i prezzi consigliati di 0,50 euro al litro e quindi 50 centesimi. Appunto, il prezzo massimo si attesta a 1,78 euro. 0,5 centesimi al litro, magari 50 centesimi naturalmente. La corsa ai Bund tedeschi spinge al ribasso, lo dicevamo prima, il rendimento del titolo a 5 anni, che ha toccato il suo massimo storico allo 0,61%, un livello mai raggiunto dalla nascita dell'euro. Lo spread fra BTP e Bund supera oggi i 410 punti base, siamo arrivati a 413 con il rendimento del BTP a 10 anni, che è risalito al 5,77%. Il divario invece fra Francia e Germania si è allargato a 146,6 punti base e quello della Spagna a 439, con il rendimento dei bonus, i titoli decennali spagnoli, che è tornato sopra la soglia critica del 6%. C'è da segnalare che questa è una settimana fondamentale, cruciale per il Tesoro italiano, che mette in asta numerose scadenze, numerosi titoli di Stato, a cominciare da domani CTZ e BTP indicizzati all'inflazione per un massimo di 3,5 miliardi, mentre giovedì sarà la volta di BOT a 6 mesi per un massimo di 8,5 miliardi. Il Tesoro fa sapere anche che il 30 aprile scadranno titoli a breve termine per 9,350 milioni di euro. Ma questa settimana attenzione anche alle aste olandesi, dopo che sabato scorso il governo è caduto sull'incapacità di approvare misure per ridurre il deficit. Come vi dicevo poco fa, il premier olandese Mark Rutte ha presentato le dimissioni del suo governo alla regina Beatrice. Andiamo alle notizie dal nostro paese. Il Fondo Monetario condivide le azioni messe in campo dall'Italia e neanche da loro si chiede nulla di più di quanto già fatto, lo ha detto il viceministro dell'economia Vittorio Grilli rispondendo oggi ai giornalisti che gli chiedevano se fosse esclusa o meno una nuova manovra. Altre indicazioni di Vittorio Grilli: non abbiamo in programma patrimoniali o altri interventi fiscali, già è stato fatto un forte intervento con l'IMU sul patrimonio immobiliare, lo ha detto nel corso di un'audizione alla Camera. Per quello che riguarda la spending review, cioè il taglio alla spesa pubblica, è importante, ma non dobbiamo illuderci, soprattutto dal punto di vista congiunturale. Qualsiasi taglio alla spesa non facilita la crescita, tagliando la spesa pubblica d'impatto l'economia non va meglio, ha detto Grilli. È crollata ad aprile la fiducia dei consumatori nel nostro paese, tocca per l'Istat il punto più basso dall'inizio delle serie storiche rilevate, cioè gennaio 1996. Il dato passa dai 96,3 punti di marzo a 89. In calo tutte le componenti, in particolare clima economico generale, clima futuro e situazione corrente. Nel primo trimestre del 2012 calano le imprese in grado di fronteggiare il proprio fabbisogno finanziario senza alcuna difficoltà, il 36%, e per la prima volta dal 2008 quelle che ottengono meno credito di quello richiesto o non lo ottengono quasi, il 37%, sono più numerose di quelle che invece lo ottengono. Oggi questa statistica è stata diramata da Confcommercio. Noi vi ricordiamo che potete continuare a scrivere le vostre storie di lavoratori o imprenditori in grossa difficoltà all'indirizzo disperatimai@radio24.it. Raccontateci le difficoltà con cui dovete fare i conti, ne parleremo nel nostro programma. Da qualche giorno le vostre lettere le sta leggendo Oscar Giannino, ha iniziato anche Sebastiano Barisoni, e vi ricordo che venerdì quasi tutto il palinsesto di Radio 24 sarà dedicato a questa nostra iniziativa straordinaria, con varie declinazioni a seconda naturalmente delle trasmissioni. La Corte d'Appello di Bologna ha condannato a 17 anni e 10 mesi Calisto Tanzi per il crack della Parmalat, 9 anni e 11 mesi e 20 giorni a Fausto Tonna, l'ex direttore finanziario. In primo grado erano stati condannati rispettivamente a 18 e 14 anni. La sentenza sostanzialmente in linea per la posizione di Calisto Tanzi con le previsioni che avevamo fatto, e il primo commento del legale dell'imprenditore appunto di Collecchio, Fabio Belloni, alla sentenza di secondo grado sul crack della società appunto di Collecchio. Un'altra notizia che poi approfondiremo, poi andiamo al primo tema di oggi. Chiaramente non possiamo non commentare quanto sta accadendo anche oggi, anche in questo inizio di settimana sui mercati. La Fiat ha presentato al Salone dell'Automobile di Pechino la Viaggio, una vettura pensata per il mercato cinese con la collaborazione del partner locale della casa automobilistica torinese GAC. Non vi sto neanche a pronunciare appunto il nome cinese, poi magari ci faremo aiutare dall'inviato del Sole 24 Ore Andrea Malan. La Viaggio è una berlina a quattro porte, sarà la prima ad offrire sul mercato cinese un sofisticato motore turbo, e questa iniziativa, dove è stata presentata questa nuova auto, è il 12° salone dell'automobile che si svolge annualmente appunto una volta a Pechino, una volta a Shanghai, e si apre in un momento però di flessione per il mercato cinese, quindi vedremo dopo Fiat che tipo di obiettivi di crescita ha in questo territorio. Direi che possiamo lasciare le notizie in breve di oggi e andare subito al primo approfondimento di questa giornata. Allora, eccoci qua a raccontarvi di questa giornata che, tra l'altro, a questo punto non vediamo l'ora che finisca, perché l'emorragia è continua. Adesso tutti i principali indici del vecchio continente hanno superato i 3 punti di ribasso, ma vedo che Milano si avvicina ad un pericoloso meno 4% sul FTSE, meno 3,85 adesso, mentre Parigi è meno 3, Francoforte meno 3,47, Londra meno 2. Il Belgio meno 2,72, così ve ne diamo tutti. L'Olanda meno 2,73%. Wall Street chiaramente non può oggi non accodarsi all'Europa, anche se riesce a contenere i cali. Comunque per il Dow Jones abbiamo ribasso di un punto, il Nasdaq perde 1,5%, lo Standard & Poor's perde l'1,16%. Allora, quali sono i temi? Oggi la finanza si è intimamente legata alle vicende politiche del nostro paese. La vittoria di François Hollande al primo turno elettorale in Francia, adesso l'appuntamento è al ballottaggio con Sarkozy il 6 maggio, ha aumentato le tensioni sui mercati. Pesa anche il flop del piano di austerity in Olanda, che apre la pista alle elezioni anticipate. Non ha portato grande ottimismo invece la decisione presa dal G20 di Washington del fine settimana, che ha stabilito di potenziare i fondi disponibili per il Fondo Monetario Internazionale da 400 a 430 miliardi. E poi oggi abbiamo avuto anche questo indicatore economico, l'indice PMI manifatturiero, che in Europa è risultato in calo, e ha particolarmente pesato la rilevazione al ribasso che ha riguardato la Germania. Ad aprile l'indice è sceso a 46,3 punti rispetto ai 48,4 di marzo. Quindi una brutta notizia che arriva dalla Germania, che viene ancora considerata un po', nonostante le difficoltà di tutti, la locomotiva europea. E poi soprattutto siamo ancora sotto soglia 50, che indica contrazione economica. Se questa rilevazione va sopra i 50 punti, indica invece espansione economica. Ma sono queste davvero le ragioni di questo nuovo pessimismo cosmico che sta riguardando i mercati? Buonasera ad Andrea Ragaini, direttore centrale del private banking di Banca Carige. Buonasera dottoressa. Buonasera. Allora, che è successo oggi? Dobbiamo dare la colpa a François Hollande per questa bufera sui mercati che stiamo vedendo oggi? C'è qualcosa di più profondo sulle condizioni del debito sovrano? Insomma, abbiamo versato fiumi di inchiostro, lo stiamo facendo, non dico da mesi, ma da anni. Molte novità non mi sembra che ce ne siano state, eppure il mercato ha preso molto male sia la questione francese che anche le dimissioni del governo olandese preannunciate, consegnate nelle mani della regina Beatrice. Dottor Ragaini, ci aiuti un po', ci illumini un po' questa giornata, se ce la fa. Purtroppo, come spesso accade nei momenti di tensione, notizie che di per sé non sono così sconvolgenti creano un effetto di riduzione a catena che poi si innesca molto rapidamente e si propaga su tutti i mercati. È quello che è successo oggi. I mercati finanziari europei erano già deboli da una situazione strutturale che aveva rivisto la ripresa significativa degli spread ormai da 4 settimane. In un clima di tensione, le notizie che potrebbero cambiare e portare nuova fragilità agli equilibri europei, che già sappiamo sono molto fragili, molto poco definiti, hanno causato un ulteriore effetto di presa di beneficio, di allargamento degli spread. Purtroppo quello italiano è ritornato ampiamente sopra i 4 punti percentuali. Quello succede purtroppo senza che ci siano notizie poi così sconvolgenti. Il fatto che Hollande sia in testa nei sondaggi elettorali porta sicuramente un cambiamento di quadro europeo, ma non uno stravolgimento. Certamente è stato ampiamente affermato che da solo il fiscal compact non è un elemento sufficiente a riportare i conti degli stati in equilibri sostenibili, perché mentre riduce i deficit dall'altra parte non pensa alla crescita. Hollande penso che abbia più volte espresso il significato della parola crescita e l'importanza della crescita in Europa, quindi penso che nel lungo periodo addirittura un tema di conciliare in modo più virtuoso compressione dei costi dei vari stati, quindi fiscal compact, e dall'altra parte crescita sia solo una notizia positiva che nel breve periodo, abbiamo visto oggi, non è stata interpretata così dai mercati. Se lei dovesse proprio indicare il motivo che più ragionevolmente oggi ha scatenato questo pessimismo, appunto al di là dell'analisi che ci ha appena fatto, omnicomprensiva chiaramente un po' di tutte le ragioni che gli operatori hanno preso a pretesto per vendere di tutto, soprattutto poi le banche italiane naturalmente, perché quando ci sono queste notizie sono soprattutto le banche del nostro paese che vengono prese di mira, anche se per la verità oggi il peggior titolo è stato STM, qua non c'è spread che tenga, qui c'è stata tutta una ragione societaria, ma poi lo commenteremo con i colleghi di Radio Cori Le Sole 24 ore. Se lei appunto dovesse indicare proprio la ragione concreta che oggi ha fatto ritornare a piovere sul mercato azionario in maniera così dirompente. La motivazione è che l'Europa non riesce a trovare delle soluzioni comuni, questo ormai è dall'ultimo vertice di Copenaghen che ce lo stiamo dicendo, non si riescono a trovare azioni comuni e vediamo che anche i firewall che possono essere impostati a livello mondiale col Fondo Monetario che mette sul piatto oltre 300 miliardi di euro non sono sufficienti. Io penso che la motivazione principale sia proprio questa: in un quadro in cui l'Europa già oggi non riesce a trovare delle risposte, probabilmente ancor più domani con dei cambi di equilibri e un equilibrio importante, non dimentichiamoci che Francia e Germania sono gli azionisti quasi di controllo dell'Europa, di fatto può portare ulteriori elementi di dubbio. Quanto tempo ancora dovremmo assistere a queste giornate, dottor Ragaini? Quale potrebbe essere la chiave di volta che potrebbe far cambiare umore agli investitori, quella che ci ha appena detto, una ritrovata coesione appunto della politica europea che ci appare in questo momento estremamente improbabile, anche perché abbiamo già visto che ognuno in casa propria deve affrontare il proprio elettorato, studiare, stabilire, proporre delle ricette economiche che riguardino il proprio paese, per cui chiaramente ognuno dovendo gestire le questioni domestiche fa proprio un po' fatica anche a guardare al di fuori dei propri confini. Penso che gli elementi centrali siano il denominatore dei rapporti, cioè deficit o debito su PIL, il denominatore è proprio il PIL, oppure la fiscalità comune europea. Mi spiego un po' meglio. Gli unici elementi che possono ridare fiato ai mercati sono o una crescita del PIL in tutta l'area dell'Eurozona che stenta a crescere, abbiamo visto le previsioni proprio dell'Outlook del Fondo Monetario Internazionale dell'OCSE la settimana passata, sono notizie non certamente positive, tutti dati ampiamente inferiori all'1% di flessione, e quindi una ripresa del PIL potrebbe ridare un po' di slancio ai mercati con a questo punto anche un passaggio diretto sui mercati finanziari, oppure un tema di fiscalità europea che tende ad andare un po' oltre il PIL e tende a risolvere strutturalmente un equilibrio europeo tra stati che oggi non c'è. Stiamo vedendo stati che accumulano sistematicamente surplus, vedi Germania, stiamo vedendo stati che accumulano sistematicamente deficit, vediamo l'Italia e la Spagna. Quindi io penso che le uniche due notizie che possano portare un po' di sereno sui mercati sono o notizie di carattere macroeconomico che riguardano il PIL o notizie di carattere politico e fiscale che riguardano l'Europa. Stavo intanto monitorando un po' le agenzie per capire se ci fossero così altri spunti da commentare con lei, me ne viene uno, leggevo questa mattina questo dato monitorato, rilevato dal sito del Sole 24 Ore, quindi dai miei colleghi che lavorano nella redazione online appunto, che hanno verificato che l'Irlanda, un paese che è stato un centro anche in questo caso di un salvataggio piuttosto importante, finanziato dal fondo Salva Stati, le FSF, è stato un salvataggio che comunque ha condotto dei risultati, perché praticamente in un anno il rapporto deficit-PIL è letteralmente crollato di 18 punti percentuali, adesso vi do le indicazioni più corrette, sto ricercando la notizia, ma in ogni caso non è sempre detto, dottor Ragaini, appunto, che è un salvataggio che potrebbe anche essere necessario per la Spagna, tra i grandi paesi dell'Eurozona per i quali si teme, appunto, possa poi non riportare sul corretto sentiero di crescita appunto il paese, adesso non tanto di crescita ma comunque di ripristino delle condizioni finanziarie. Assolutamente sì, l'obiettivo dei salvataggi è proprio quello di togliere temporaneamente i paesi dal mercato finanziario e dargli il tempo per portare avanti quei processi strutturali che aiutino a riportare i conti in equilibrio, deficit PIL e debito PIL. Questo è quello che è successo in Irlanda, in cui al piano di salvataggio dell'EFSF di oltre 80 miliardi di euro si è associato però una politica di rigore fiscale e stimoli alla crescita economica che hanno riportato in equilibrio il paese. Quello che tutti ci aspettiamo sulla Grecia, anche se con tanti elementi di dubbio in più che sono stati impostati da tanti operatori, sulla Spagna abbiamo le difficoltà strutturali di un debito pubblico che cresce in modo significativo, di un deficit che cresce ancora quest'anno nonostante i contratti e gli impegni assunti di un ritmo superiore al 5% e uno squilibrio forte del mercato immobiliare da cui non si riesce a uscire, proprio perché il mercato immobiliare era stato posto al centro della politica di sviluppo dell'economia spagnola negli ultimi 10 anni. Un'ultima osservazione gliela chiedo, dottor Ragaini, sugli appuntamenti, sono diversi questa settimana del Tesoro italiano sul mercato e quindi chiaramente è una settimana che già si è preannunciata con quello che è successo oggi in maniera piuttosto complicata. Domani sono in asta CTZ e BTP indicizzati all'inflazione fino ad un massimo di 3 miliardi e mezzo di euro. Giovedì ci sono titoli a brevissima scadenza, bot a 6 mesi, 8 miliardi e mezzo. Dobbiamo cominciare a temere qualcosa? Comunque, secondo lei, rispetteremo questi appuntamenti? Il Tesoro avrà una domanda piuttosto sostenuta? Insomma, qual è la previsione che si può ragionevolmente fare, anche se mi rendo conto che è abbastanza complicato anche per voi? Allora, abbiamo sempre assistito a aste che hanno vissuto momenti di sottoscrizione molto forti, anche nei momenti più difficili il bid cover è stato ampiamente soddisfatto, quindi io penso che ancora una volta il MEF abbia dimostrato una grande capacità di collocamento e in ultima istanza i titoli del Tesoro italiano abbiano trovato una buona ricettività tra il pubblico, forse sempre più nazionale che internazionale, comunque sia una buona ricettività. Quindi io mi aspetto che ancora non ci siano scossoni dal punto di vista della domanda, purtroppo i rendimenti non potranno che risentire dell'aumentata tensione sui mercati finanziari, così come purtroppo anche le ultime aste ci hanno insegnato a vedere. Quindi mi aspetto una domanda ancora discreta e rendimenti purtroppo in salita. La ringrazio per questa bella notizia che ci ha dato sul finale, dottor Ragaini, grazie molte per essere stato con noi. Andrea Ragaini, direttore centrale Private Banking di Banca Carige. Intanto continuo ad osservare molti ascoltatori che ci appunto dicono la loro, sa su quello che è accaduto oggi, e molti naturalmente chiaramente hanno anche dei commenti piuttosto, non dico perplessi, per non usare anche un termine, un aggettivo un po' meno carino nei confronti dei nostri ospiti. Io mi rendo conto che magari tutte le analisi che facciamo qualche volta sono insoddisfacenti per quello che vi riguardano, però insomma la crisi è questo, noi cerchiamo di portare chiaramente gli ospiti che riteniamo più autorevoli possibili ed analizzare quello che accade nella speranza che naturalmente quest'area cambi al più presto di nuovo, ma al momento abbiamo invece cambiato direzione da un'altra parte ed è ritornato il pessimismo. Detto questo, Milano si avvia la chiusura definitiva con un meno 3,83%, tra qualche minuto vi raccontiamo i casi specifici di Piazza Affari. Eccoci ritrovati insieme, ancora buonasera da Deborah Rosciani per la seconda parte di Focus Economia, nel senso seconda parte del nostro primo blocco. C'è una società di analisi finanziaria che poco fa mi ha inviato un report che si intitola Holland e Holland, praticamente giocando proprio tra l'assonanza sia del nome di battesimo del candidato socialista alle presidenziali francesi e invece alla traduzione inglese del nome appunto dell'Olanda, e perché questi sono effettivamente stati oggi due grandi temi che hanno scatenato queste vendite sul mercato azionario, le incognite politiche in Francia ma anche in Olanda, dove il primo ministro Rutte rischia di cadere rovinosamente a causa del rigore fiscale anche interno. In realtà oggi il primo ministro Rutte ha presentato le sue dimissioni alla regina Beatrice e oggi anche gli indici PMI pubblicati appunto nell'Eurozona hanno mostrato un peggioramento marcato per la condizione della manifattura in Germania, in Francia, per tutto il vecchio continente. Insomma, oggi davvero non ci siamo fatti mancare nessun argomento e gli investitori che cosa hanno fatto? Hanno venduto a piene mani, hanno fatto di nuovo lievitare gli spread dei paesi periferici appunto rispetto ai titoli tedeschi. Molti ascoltatori osservano casualmente gli spread si ampliano notevolmente in concomitanza con le aste principali, appunto, dei più importanti paesi. Coincidenze effettivamente pertinente, osservazione pertinente fatta da molti ascoltatori, e evidentemente se qualche paese tracollerà, molti investitori se ne dovranno assumere la responsabilità se a loro piace questo gioco al massacro. Detto questo, 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Adesso la giornata di Piazza Affari. Con il collega di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, Guido Maurino. Guido, buonasera. Buonasera. Per adesso ti risparmio di parlare di calcio. Grazie. Andiamo ai temi della giornata a Piazza Affari. Per la verità i temi sono sempre gli stessi. Quando Piazza Affari scende in maniera così rovinosa e lo spread si allarga così tanto, chiaramente le vendite sul settore bancario si sprecano. Però il caso del giorno in negativo è STM meno 14,26%. Cosa è successo? Sì, oggi era atteso il piano di risanamento della joint venture che ST ha con Ericsson, e in questo piano di risanamento sostanzialmente sono previsti tagli molto importanti, perché si tratta di 1700 posti di lavoro su 6000, ma non saranno tutti i dipendenti che vanno a casa, ma quelli che si occupano appunto di ricerca e sviluppo verranno assorbiti da ST, quindi diciamo che nell'immediato ST si prenderà carico della maggior parte dei costi di questo piano di ristrutturazione della joint venture, e in concomitanza con questa notizia il titolo è franato rovinosamente in borsa. Poi nella notte, dopo la chiusura di Wall Street, dovrebbero arrivare anche i conti del primo trimestre, e vedremo domani se costituiranno un motivo per tentare un rimbalzo oppure no. Andiamo alle banche. Io do le percentuali, anche se non credo che ci siano storie oggi da raccontare, fatti particolari che abbiano provocato questi cali così forti. Il peggior bancario Unicredit, meno 6,42%, riscende molto al di sotto dei 3 euro che aveva riagganciato nelle scorse settimane, che tentava disperatamente di tenere. Meno 6,29% per Intesa San Paolo, che ancora l'euro nominale lo tiene, così come il Banco Popolare, meno 5,79%. Popolare di Milano, meno 5,59%. Azimut, meno 5,32%. Monte dei Paschi, meno 5,30%, per arrivare finalmente al primo non bancario della seduta, negativo, Impregilo, meno 5,26%. Andrei però a verificare, Guido, se ci sono delle notizie su A2A, la Utilities appunto lombarda, che ha perso anche oggi il 5% e che vive da settimane forte tensioni sulla sua governance. Sì, ci sono forti tensioni sulla sua governance e sulla gestione della vicenda Edipower nell'ambito del riassetto Edison. Gli analisti continuano a chiedere una maggiore chiarezza sulle strategie del gruppo. Ha provato a fornire qualche spiegazione il presidente del consiglio di gestione Giuseppe Sala, che in un'intervista nel fine settimana a Repubblica ha cercato di rassicurare sul fatto che non sarà necessario un aumento di capitale, che la società è solida finanziariamente. Certo, però tutte le incognite relative alla governance e alla struttura del gruppo, e in particolare a come A2A cercherà di ridurre un indebitamento che con Edipower diventerà ancora più alto, sono ancora tutte lì, e sono tutte questioni che andranno risolte nei prossimi mesi. Ansaldo, meno 5,23%, qua veramente i titoli che hanno perso oltre il 5% ce ne sono tantissimi. Ubibanca tra questi, insieme ad A2A anche Finmeccanica. Fiat Industrial, meno 4,98%, Exor, meno 4,97%, poi un altro bancario, Popolare dell'Emilia Romagna, meno 4,30%, Saipem, meno 4,26%, Salvatore Ferragamo, meno 4,16%, Mediolanum, meno 3,89%, andiamo al gruppo appunto con il 3 davanti, Terna, meno 3,86%, Prismian, meno 3,73%, Buzzi Unicem, meno 3,54%, Fiat SPA, meno 3,41%, quindi tutte le nuove prospettive sul mercato cinese sono state accolte così oggi a Piazza Affari, ne parleremo più tardi. Diasorin, meno 3,40%, Atlantia, meno 3,32%, oggi voglio fare proprio tutta la lista della spesa. Eni, meno 2,85%, Generali, meno 2,68%, TOTS, meno 2,65%, Parmalat, meno 2,51%, che era oggi stata la condanna di Calisto Tanzi, ma nulla c'entra ormai con questa Parmalat, che è completamente nuova e non ha nulla più a che fare con la vecchia gestione, Pirelli meno 2,47, Luxottica meno 2,34. Sto cercando di andare su a capire se c'è un titolo positivo a Milano, non ce n'è neanche uno. Il titolo che ha chiuso con il ribasso più contenuto è nel Green Power, che ha perso tuttavia lo 0,7%, Telecom meno 1,16, Campari meno 1,36. Andiamo sul listino minore, Guido, per verificare oggi la galassia fondiaria SAI, come si è comportata. Anche qua ogni giorno un colpo di scena nuovo. Sì, diciamo che questa mattina aveva tentato un rimbalzo la galassia Fonsai, mentre poi in chiusura è stata travolta dalla giornata pessima di borsa e Fonsai appunto ha ceduto l'1,04%, Premafina ha chiuso debolmente positiva, più 0,6, e Milano Assicurazioni più 0,82. Si continua a lavorare per cercare di salvare il gruppo, in particolare per stabilire i rapporti di concambio nella fusione A4 delle tre società della galassia di Gresti con Unipol. Qualche passo avanti sembra che sia stato fatto, almeno oggi il presidente della Milano Assicurazioni, che si era riunito in assemblea, ha detto che si stanno avvicinando le parti, che si stanno restringendo le distanze. Certo, è ancora tutto un percorso in divenire. Domani, fra l'altro, ci sarà l'assemblea dell'altra società della galassia di Gresti, Fondiaria SAI, e sostanzialmente ai soci sarà proposto un aumento di capitale senza ancora un'indicazione vera su quali saranno poi i rapporti di concambio nell'ambito della prospettata fusione con Unipol. Guido, so che non vorresti mai ricevere questa domanda, però almeno un titolo di una storia positiva oggi a Piazza Affari dobbiamo parlare. La Juventus si porta a casa un punto percentuale di guadagno rispetto ai risultati di campionato, poteva fare anche qualcosa di meglio, ma insomma forse trovato pochi tifosi disposti ad acquistare il titolo. Sì, che dice l'animo granata, lo so che ti indispettisce parlare di questo argomento, ma ce diciamo la devi fare. Che, cioè, il vantaggio della Juventus quest'anno è il fatto di aver potuto contare su 6 punti in più che avrebbe perso con i derby, per cui insomma questo più 0,99%. Ma sulla performance di borsa non c'entra nulla. Comunque oggi insomma la vittoria sulla Roma ha comportato questo rialzo per i titoli a Piazza Affari. Grazie a Guido Maurino, buona serata Guido. Buona serata. Io saluto subito, gli chiedo un minutino di pazienza perché abbiamo la viabilità. Roberto Darin, corrispondente da Buenos Aires per il Sole 24 Ore. Roberto, buonasera. Buonasera a voi. Ci dai un minutino per sentire cosa sta succedendo sulle strade italiane, certo. Poi andiamo all'approfondimento con te. A tra poco. Insomma, con tutti i problemi che ci sono in Europa oggi, con tutti quelli che ci sono in Italia, ma come mai ci sarà venuto in mente di andare a fare questa puntata a Buenos Aires in Argentina? Perché per la verità c'è una notizia molto importante che nei giorni scorsi abbiamo dovuto, per dar spazio a tutte le altre questioni di economia internazionale, trascurare e tralasciare. Ma ci andiamo oggi per fare un approfondimento perché c'è una notizia di cronaca da quale abbiamo tratto appiglio, e cioè il ministro degli esteri spagnolo García Margallo presenta in questa giornata ai suoi colleghi europei le sanzioni che il governo di Madrid ha deciso di adottare in risposta a quell'esproprio che il governo di Cristina Kirchner, cioè dell'Argentina, ha riservato alla Repsol YPF, che è la praticamente multinazionale del petrolio operante in questa grande area. In attesa, appunto, Margallo ha preso questa iniziativa in attesa di una iniziativa globale europea. Madrid ha già deciso come contropartita a questo esproprio di limitare le importazioni di biodiesel argentino. Una possibilità allo studio da parte degli esperti europei è quella di rivolgersi all'Organizzazione Mondiale per il Commercio, nonostante l'istituzione non sia a priori competente sulle questioni che riguardano la protezione degli investimenti dall'estero. E allora, Roberto Darin, ci ricordi un po'? Ci rifai la cronistoria di questa decisione della presidente Kirchner di ritornare a questo protezionismo, nazionalismo argentino, che in qualche maniera vuole anche salvaguardare la crescita economica che quest'area sta vivendo, ma noi tanto ce la ricordiamo solo per la drammatica situazione dei tango bond. Eppure il sentiero della crescita l'Argentina l'ha ripreso e adesso vuole proteggerlo a tutti i costi. Esattamente, è come tu dici, lunedì scorso la Presidenta ha annunciato a reti unificate di voler espropriare la compagnia petrolifera YPF, che è attualmente controllata dalla spagnola Repsol. È un provvedimento forte, naturalmente, che assegna allo Stato una quota del 51%. E quindi lo Stato argentino diventa a tutti gli effetti il maggior azionista. Sarà presentato in Parlamento, dove verrà approvato a larga maggioranza. Questa è la cronaca secca di quanto accaduto esattamente una settimana fa, cioè lunedì scorso. Attualmente, per fare un passo indietro, va ricordato che la compagnia venne privatizzata dal governo di Menem nel 92 e Repsol acquisì il 25% del pacchetto nel 99, poi salì al 57%, e quindi in questi dal 99 a oggi, in questi 13 anni, Repsol ha gestito in gran parte la società. Dunque la notizia è una notizia forte, naturalmente, perché un esproprio fa sempre effetto, e soprattutto perché la stragrande maggioranza degli argentini sono a favore di questa misura. Quindi non solo i partiti ovviamente di governo, ma anche quelli dell'opposizione, tanto che secondo i giornali una percentuale compresa tra il 65 e il 75% di argentini a favore di questa misura. Ne è a favore anche, se non sbaglio, l'ex presidente Menem, che hai appena citato, che dopo aver privatizzato queste aziende adesso invece dà il suo consenso alla nuova strada della Kirchner. Esattamente, dà il suo consenso motivandolo così. Dice che Repsol non ha investito a sufficienza e che la gestione di Repsol, della società energetica spagnola Repsol, non è stata buona e che quindi è giusto che il petrolio argentino torni nelle mani degli argentini. Allora, qui ci sono diverse considerazioni da fare. Certamente un esproprio è un atto estremo di una durezza manifesta. Ciò detto, la Spagna, al di là delle misure che tu annunciavi poco fa, che verranno prese, ha scarse probabilità di ottenere risultati positivi. Innanzitutto perché gli organismi internazionali cui si può rivolgere, per esempio l'ICSID, hanno tempi biblici e molto spesso... Ah, lo sappiamo bene qua in Italia, figuriamoci, con il tango. Sappiamo bene che non ci sono buone probabilità di successo, prima cosa. Seconda cosa, loro hanno già annunciato, gli spagnoli, che rinunceranno alle importazioni di biodiesel dall'Argentina, quindi questa è una rappresaglia immediata. Ma per gli argentini non sarà un problema ripiazzare il loro biodiesel, quindi diciamo le rappresaglie purtroppo non portano lontano. Ma infatti abbiamo visto anche quando, con la questione dei tango bond, l'Argentina è rimasta a lungo fuori dai mercati internazionali, appunto quel tipo di rappresaglia l'hanno guardata proprio con grande disinteresse, mi sembra di ricordare. Attenzione per cui... sui tango bond, è tutto vero quello che dici. Attenzione ai tango bond, perché alla fine loro, proprio di recente, hanno dimostrato, questo lo ha riportato anche il New York Times, che a seconda dell'offerta, che loro hanno fatto diverse offerte dal 2003 in avanti, i risparmiatori hanno recuperato tra il 55 e il 90%, a seconda di quando hanno aderito all'offerta. Quindi sui tango bond, in verità, alla lunga loro... Hanno avuto quasi ragione. C'era anche addirittura un titolo che la cui restituzione, la cui cedola era agganciata al prodotto interno lordo, per cui magari proprio soprattutto quel gruppo là... Esattamente. C'è stata una modalità simile, è stata scelta anche per la Grecia. Purtroppo devo correre, Roberto, ma noi perché abbiamo parlato oggi di tutto questo argomento? Non tanto per capire le ricadute delle società italiane, ecco. Dunque sì, le ricadute delle società italiane, naturalmente nessuno spiccica una parola perché hanno tutti grande preoccupazione, inevitabile. Le società italiane sono sostanzialmente quattro: Enel, Telecom, Fiat e Pirelli. Tutti quanti stanno molto attenti, naturalmente hanno annunciato che temono segretamente che ci possa essere qualche forma di nazionalizzazione, però siccome qualche settimana fa dal governo era arrivato l'auspicio diretto appunto alle società straniere, tra cui quelle italiane, di non distribuire dividendi ma di reinvestire gli utili fatti in Argentina, gran parte delle società italiane hanno annunciato, senza appunto esserne obbligate, che punteranno di nuovo sull'Argentina, Pirelli, Telecom e altri. Senza timore di esproprio alcuno. E chi può dirlo? Questo è difficile da dire, però loro hanno comunque annunciato che continueranno ad investire in Argentina e questo, come dire, da parte loro gli argentini accampano una spiegazione molto semplice, che è quella di non seguire le orme dell'Europa che è sull'orlo dell'abisso, e visto che la loro economia sta andando meglio della nostra, non hanno nessuna ragione di seguire. Possono permettersi questo distacco. Intanto noi monitoreremo anche questa relazione politico, economico e diplomatica in crisi fra l'Argentina e la Spagna, come evolverà. Intanto grazie a Roberto Darin da Buenos Aires. Buona serata Roberto, a presto. Grazie a voi, a presto. Ci fermiamo, adesso c'è il nuovo giornale radio e Focus Economia torna subito dopo. Eccoci ritrovati a Focus Economia, buonasera da Deborah Rosciani. Tante le notizie da commentare in questa giornata. Un grande spazio abbiamo dedicato in apertura di programma alla giornata di borsa, che si è conclusa con un bilancio molto pesante per Piazza Affari, meno 3,83% sul FTSE MIB per le vendite che sono letteralmente piovute sul settore bancario, per il nuovo allargamento dello spread a 413 punti base per poi scendere leggermente, ma i temi oggi sono stati completamente europei perché il mercato e gli investitori hanno guardato al risultato elettorale francese, primo turno per le presidenziali e l'altissima percentuale di consenso incassata dal socialista Hollande, e poi la crisi politica olandese, paese che fino a questo momento aveva tenuto un po' più sotto controllo i conti, ma rischia di perdere la AAA. Un governo che oggi ha presentato le sue dimissioni alla regina Beatrice, quello guidato da Rutte, che ha chiesto sacrifici e austerità anche a questo paese, ma il paese non accetta. E queste sono un po' le questioni che oggi hanno catalizzato l'attenzione generale degli investitori. Non ultima anche l'indicazione statistica diffusa questa mattina, l'indice PMI composito dell'Eurozona, risultato a sorpresa in aprile in calo, e soprattutto un calo marcato per Germania e Francia. Insomma, tutti questi fattori oggi hanno portato a questo risultato. Meno 3,83% sul FTSE MIB, Piazza Affari, Parigi meno 2,83%, Francoforte meno 3,36%, Londra meno 1,85% e Wall Street che sta perdendo un punto sui principali indici. Il Dow Jones in questo momento segna questo calo, il Nasdaq meno 1,24%. Ma per ora la borsa la lasciamo e andiamo a parlare delle novità relative alla riforma del mercato del lavoro. Non è che ci siano novità rilevanti da raccontare, ad eccezione del fatto che sono circa 300 gli emendamenti e le proposte di modifica al disegno di legge di riforma del mercato del lavoro che i relatori Maurizio Castro del PDL e Tiziano Treu del PD si attendono, saranno presentate entro il termine che scadrà domani alle 12 in Commissione Lavoro del Senato. E alla vigilia di questa scadenza il ministro del Lavoro Elsa Fornero oggi ha partecipato ad un'assemblea delle rappresentanze sindacali unitari FIOM della Lenia di Caselle in provincia di Torino. 1000 dipendenti presenti fra operai, tecnici ed impiegati. L'assemblea a quanto pare è finita con un ultimo applauso degli lavoratori, con il ministro appunto Fornero, con un applauso per il ministro Fornero. All'inizio l'incontro non è che fosse iniziato appunto con i migliori auspici, d'altronde la Fornero era anche reduce da una dura contestazione ricevuta all'università appunto proprio sabato scorso. Davide Colombo, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ci senti? Allora, nei giorni scorsi la leader della CGIL, la Camus, aveva commentato in maniera un po' dura, insomma, la preannunciata visita del ministro Fornero alla Lenia. Penso sia una scelta molto discutibile, aveva detto, veramente molto discutibile. Ritengo che ognuno abbia i suoi ruoli che bisogna mantenere e rispettare. Io ci vedo della supponenza, una sorta di vengo io così gliela spiego io la riforma perché voi non sapete fare il vostro mestiere, mi pare una logica di sfida. Ci spieghi tu, che conosci molto bene questo ministero, la forma che sta prendendo la riforma del mercato del lavoro, qual è l'obiettivo del ministro Fornero in questo giro tra le fabbriche e le aziende? Non so se quella di oggi sarà la prima visita di una lunga serie che condurrà in altri stabilimenti nel nostro paese. Davide, insomma, qual è la missione che la Fornero si è proposta con questa iniziativa? La missione è molto semplicemente, molto anche umilmente, credo, quella di provare a spiegare la riforma. Provare a spiegare la riforma direttamente a degli editori che sono degli editori che di solito sono, tra virgolette, intermediati dai sindacati. Giusto che ognuno faccia il suo mestiere, non vedo cosa ci sia di male che un ministro del lavoro vada in una grande azienda, in una grande fabbrica, in una grande manifattura a spiegare il disegno di riforma che è stato presentato. È chiaro che la cosa in qualche modo scompone e provoca reazioni anche di vigilia per i sindacati, semplicemente perché forse negli ultimi 30-40 anni non si ricorda un ministro del lavoro che va in fabbrica e spiega e illustra e soprattutto ascolta e risponde alle domande e cerca appunto di dare un quadro complessivo, prendendosi anche dei rischi non indifferenti, perché questo è un ministro che viaggia con una grande squadra di vigilantes e di guardie del corpo, per cui non è poi così scontato che effettivamente si organizzino nella totale sicurezza anche questi incontri. C'è da tenere anche sotto controllo un po' questo aspetto. Ho fatto un piccolo inciso, certo. Davide. Certo, no, ma è, come dire, il nostro è un paese che anche quando l'economia non morde così duramente è abituato a enfatizzare e ad eccitarsi molto su temi come questi qui, che sono il lavoro e la previdenza. Quindi sono state messe in campo due riforme che, appunto, una delle ragioni della strategia di comunicazione che il ministro Fornero sta cercando, con i mezzi che hanno poi, di mettere in campo, è quella lì, anche di spiegare che queste due riforme sono molto collegate tra di loro, non sono due cose che una serve per fare cassa e l'altra serve per rispondere alle lettere della Commissione Europea, della Banca Centrale Europea. Qui si tratta di tener conto che nei prossimi anni, diciamo tra il 2017 e il 2018, tra appena 5-6 anni si andrà in pensione con le vecchiaie a 67 anni, no? Chiaro che in questo contesto un mercato del lavoro che non è capace di aumentare l'occupabilità concreta degli over 55 anni, per esempio, non sta insieme con quella riforma delle pensioni che è stata fatta a fine dicembre. Quindi, al di là delle transizioni, dei problemi contingenti, degli esodati attuali che questa riforma della previdenza ha generato, come tutte le precedenti riforme della previdenza, no? Ma ha superati i problemi delle attuali platee di, tra virgolette, esodati, cioè lavoratori che hanno fatto accordi aziendali per la mobilità e che ora andranno in pensione anticipata, e poi si entrerà in un sistema che non prevede più, per esempio, la pensione anticipata, no? Allora, tutti questi ragionamenti che sembrano francamente difficili da digerire dal sindacato e dall'immediata reazione dell'opinione pubblica, sono in realtà dei ragionamenti che fotografano delle necessità concrete. Senza un mercato del lavoro più lungo, in cui gli occupati rimangono tali anche davvero dopo i 60 anni, non funziona né la riforma del mercato del lavoro che si sta per varare, né sta in piedi la riforma delle pensioni precedenti. Davide, ti chiedo un attimo di pazienza perché abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi ti faccio fare ancora un paio di commenti, un minuto solo. Stiamo commentando con Davide Colombo del Sole 24 Ore la visita odierna del ministro del lavoro Elsa Fornero agli stabilimenti della Legna di Caselle Torino, non una visita di piacere, un incontro con le rappresentanze sindacali per spiegare la riforma del mercato del lavoro che sta nascendo in questo momento con gli oltre 300 emendamenti che presumibilmente vedranno la luce prossimamente, che hanno preso corpo in questi giorni e che saranno presentate appunto entro domani alle 12 in Commissione Lavoro al Senato. Quindi una visita, un incontro con le rappresentanze sindacali di questa società per spiegare la riforma del mercato del lavoro che sta nascendo e la riforma delle pensioni che invece è stata varata nel dicembre scorso. l'obiettivo, la ratio di questa visita. Davide Colombo ce l'ha spiegato poco fa, adesso noi non vogliamo prendere nessuna parte, ha fatto bene, ha fatto male. Mi pare, Davide, che tutto sommato, a parte l'interruzione dell'intervento del ministro Fornero sempre sull'annosa questione dell'articolo 18, sia stata una visita comunque circondata dal consenso sindacale, poi che non lo esprimano chiaramente, perché un po' il gioco delle parti deve sempre esserci, ma mi sembra che tutto sommato ai lavoratori questo contatto diretto sia tutto sommato piaciuto. Ma sì, io credo che appunto qui al di là delle reazioni credo che sono un po' scontate, come dicevi tu, fanno un po' parte del gioco delle parti. Credo che per un lavoratore trovarsi di fronte direttamente un ministro di un governo tecnico, quindi che prova a illustrare. È che non deve cercare consenso e voti, perché questo pure va detto. Ecco. Esatto, che non ha l'obiettivo di costruire il consenso, semplicemente perché il suo ruolo è un ruolo tecnico e temporaneo. Sicuramente alla fine, infatti, diciamo complessivamente mi pare che abbia avuto un buon esito questo incontro nello stabilimento di Torino Caselle. Non so se seguiranno, ci sono delle ipotesi di altri incontri, forse ne hanno già prenotato uno in un'altra azienda del sud, all'Aquila, se non ho capito male, nei prossimi giorni, ma appunto fa parte di una, come dire, stiamo anche attraversando un momento in cui la politica si sta riposizionando e in cui appunto gli esponenti di questo governo tecnico provano laddove possono a illustrare la ratio del disegno complessivo. Qui è un disegno appunto, a differenza delle pensioni, quello del mercato del lavoro è un ridisegno che non produce sacrifici, dovrebbe produrre delle maggiori chance di occupabilità all'entrata per i giovani e nel medio o lungo termine invece per i lavoratori che hanno superato i 55 mm-hmm. anni. Noi abbiamo delle medie dei tassi di occupazione degli over 50 anni in Italia che sono quasi 10 punti inferiori a quelli delle medie europee. È una delle ragioni per cui la nostra economia non cresce, esattamente come abbiamo un tasso di occupazione femminile molto lontano dalle medie europee e giovanile molto lontano dalle medie europee. Sono tutte componenti che si legano e che dal punto di vista di chi ha messo in piedi queste riforme vanno letti nella prospettiva di un'economia che non è a somma zero, cioè un anziano che lavora di più toglie un posto a un giovane che non riesce a entrare, ma è vista nella prospettiva di un'economia che torna ad espandersi e che quindi riesce a garantire magari un posto di lavoro part time per un over 55enne che prende anche un pezzo di pensione e un posto di lavoro tutto intero nuovo per un giovane. Davide, io tra un minuto ti lascio, ma un'altra domanda devo fartela perché molti ascoltatori ce la stanno facendo, cioè vogliono sapere quali sono gli step prossimi sulla questione degli esodati. Dopo che si è un po' diradata la nebbia appunto intorno alle questioni legate alle cifre e nel suo ultimo intervento alla Camera rispondendo ad un'interrogazione sul tema, il ministro Fornero ha fornito, come tu lo definisci, questo disaggregato della platea dei lavoratori esodati, dei 65.000 lavoratori che il Ministero del Welfare rileva. C'è la questione del reimpiego che appunto aveva con una certa provocazione anche il ministro Fornero sollevato. Se questi lavoratori sono usciti dal mercato del lavoro con un incentivo da parte dell'azienda ma non hanno ancora i requisiti per andare in pensione, perché la riforma delle pensioni questi requisiti li ha spostati in avanti, devono in qualche maniera trovare una soluzione per reimpiegarsi. Ma qua il governo mi sembra che si sia preso l'impegno per studiare forme di reintroduzione e reimpiego. Ecco, quali sono i punti fondamentali in discussione in questo momento, i prossimi step per risolvere la questione esodati? Rapidamente, perché poi devo andare da Dino Pesole, anche se so che ti servirebbe un bel po' di tempo. Sì. Molto rapidamente, per i primi 65.000 che sono indicati nella norma, verrà fatto entro maggio un decreto ministeriale che definisce i criteri per il prepensionamento con i vecchi requisiti, sono finanziati, quindi per questa platea non c'è alcun problema, semplicemente anziché a giugno sarà entro maggio probabilmente il decreto ministeriale che definisce i criteri di pensionamento con i vecchi requisiti. Per gli altri, cioè per esempio per quelli che sono attualmente in cassa integrazione straordinaria e speciale che andranno in mobilità l'anno prossimo o l'anno dopo ancora, la riflessione che si farà a quel tavolo che è stato annunciato è capire se almeno per una parte di loro si potranno trovare delle forme di reimpiego. Non è una utopia. L'articolo 53 del disegno di legge del mercato, di riforma del mercato del lavoro, per esempio, prevede che un over cinquantenne disoccupato da 12 mesi, se riassunto, il suo datore di lavoro deve pagare i contributi, deve ha uno sconto del 50% sui contributi per un anno oppure per 18 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato. Quindi un reimpiego che comunque passi attraverso un percorso di agevolazioni fiscali per la parte datoriale. Che è esattamente quello che prevede una delle tante norme di riforma del mercato del lavoro, a conferma del fatto che le due riforme, lavoro e pensioni, si parlano, si legano, sono una la consecuzione dell'altra. Certo. Davide, grazie molte, buon lavoro e buona grazie serata. A voi, buon lavoro. E noi dalle patate bollenti del ministro Fornero passiamo a quelle del ministro Giarda. Dino Pesole, Il Sole 24 Ore, buonasera. Eccomi. Ti disturbiamo per appena 5 minuti questa sera, forse 4, per raccontarci a che punto è il lavoro del ministro per i rapporti con il Parlamento Piero Giarda, che entro la fine del mese deve consegnare il dossier sulla spending review, cioè su tutti i risparmi di spesa pubblica che questo governo ha intenzione di fare. Guarda, senza stare a girarci tanto intorno, abbiamo delle novità sulla lotta agli sprechi della spesa pubblica. Il ministro Giarda a che punto è? Sta facendo, portando avanti questa ricognizione per la verità già da 3 mesi, perché ha avuto l'incarico del presidente Monti all'inizio dell'anno e per chi si sa entro la fine del mese presenterà un primo rapporto in cui indicherà quelle che vengono definite le criticità nella spesa, e cioè singoli ministeri dove si può razionalizzare e dove non si può razionalizzare. In questa fase sta avendo dei contatti con i singoli ministri per capire innanzitutto se è possibile e deve essere possibile garantire i risparmi che già sono stati iscritti in bilancio per effetto delle manovre dello scorso anno, perché questo è il primo punto da chiarire, che si è ingenerata una certa confusione e anche una certa aspettativa sulla spending review. In realtà bisogna saper scindere le due questioni. Da un lato il governo adesso sta cercando di capire, poiché il ministro Tremonti ha attuato una logica di tagli lineari, vale a dire la medesima percentuale su tutto, detta in maniera molto brutale. Esatto, su tutte le voci. Adesso sta emergendo, e questo è il dato sul quale Giarda sta lavorando, sta emergendo che molte voci di spesa non possono essere tagliate in modo uniforme. A quel punto i singoli ministri dovranno presentare un rapporto in cui, fermo restando quell'obiettivo che è stato loro assegnato di risparmio, debbano dire se tagliano in un modo o nell'altro, tagliano la cancelleria piuttosto che rinunciano a un'auto blu, tanto per farci capire. E questo però è un lavoro molto complicato, perché se non va a buon fine occorre mettere mano con delle misure aggiuntive, perché sennò si rischia di far saltare l'obiettivo del pareggio di bilancio. Anche perché oggi ai progetti di Giarda ci si è aggiunta anche questa dichiarazione un po' sinistra del vice ministro dell'economia Grilli, che ha detto sì, la spending review è importante, ma non illudiamoci, perché non è che poi qualsiasi taglio alla spesa faciliti la crescita. Certamente sì, anzi, i tagli alla spesa sono anch'essi depressivi, così come gli aumenti di imposta. Naturalmente bisogna intendersi su che cosa si vuole tagliare. Certo, se si continua a tagliare la spesa degli investimenti, è chiaro che quella è una voce che invece potrebbe produrre sviluppo. Se invece si punta a razionalizzare la spesa per beni e acquisto di beni e servizi intermedi, che vale 120 miliardi l'anno da parte delle amministrazioni, forse lì qualcosa si può recuperare. Però questo è solo il primo punto all'ordine del giorno. Quanto ai possibili risparmi futuri della cosiddetta spending review, qui siamo nell'incertezza più totale, perché a questo punto si tratta di verificare se ci sono le possibilità per ottenere ulteriori risparmi in futuro appunto dalla razionalizzazione delle spese, soprattutto delle amministrazioni centrali. Certo, e questo è il motivo per cui, tra l'altro, il ministro Giarda ci sta mettendo anche un po' a presentare questo dossier e questa relazione. Dino, devo salutarti, abbiamo terminato al tempo a nostra disposizione, buona serata. Grazie molte, ma tanto torneremo a dilettare i nostri ascoltatori su questo argomento che li appassiona in maniera ironica, naturalmente, moltissimo. Grazie a Barbara Bianchi e a Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione. Stasera Valeria Bernardi in assistenza tecnica, domani con voi c'è Sebastiano Barisoni per Focus Economia. Grazie a tutti, da Deborah Rosciani, buona serata. Radio 24, la passione si sente.